Volevo fare un attimo, breve una sintesi perché così magari capisce, insomma, si chiude un attimo il discorso. Cioè, il punto fondamentale che si stava sostenendo prima, no? È che l'identità afroamericana, a differenza della condizione a cui si vuole rivolgere Fanon, ma non quella di Fanon, nel senso che Fanon è molto simile agli afroamericani come problematiche di fondo, ma quella di autentici soggetti coloniali come per esempio gli algerini o gli africani. È il fatto che gli afroamericani vivono appunto quella che appunto definiva Du Bois come doppia coscienza, cioè l'essere appunto americani e africani. Quindi il discorso, diciamo, generale di fondo che abbiamo fatto, no, è che Fanon viene recuperato ogni volta che l'identità africana viene sfumata e perde di radicalità e di insomma, potenzialità di contestazione al sistema americano, e insomma, viene a prevalere il fatto di essere americani, quindi completamente integrati al modello culturale e sociale americano. In un primo momento, negli anni 60, quando appunto la strategia assimilazionista, presunta assimilazionista, ma poi in realtà non veramente così, di King, perché poi in realtà verso il 68 lui inizia tutta una contestazione molto più radicale che lo avvicina all'ultimo Malcolm X, e forse anche per questo motivo viene ucciso, perché sposta il discorso non più sui riconoscimenti formali dei diritti, ma sui riconoscimenti sostanziali. E poi successivamente, oggi, in alcuni studi portati avanti, per esempio dall'Africana Studies, ma anche da tutto un filone di studi postcoloniali inglesi anche, per esempio di Paul Gilroy, Fanon è ritornato proprio in questa funzione qua, cioè nel momento in cui dagli anni 70 in avanti, soprattutto negli anni 80 e 90, tutta la cultura afroamericana, diciamo, di contestazione al sistema è stata inclusa nel sistema attraverso tutta una serie di inclusioni di quel tipo di cultura, cioè per esempio la musica afroamericana è diventata completamente mainstream e tutta la sua carica di proteste è stata inclusa nell'hip hop contemporaneo, che a parte certe forme non è più assolutamente nocivo per quanto riguarda l'industria culturale, insomma, anzi. È una delle forme musicali più diffuse al mondo. E quindi Fanon è ritornato di nuovo al centro dei dibattiti, però non più nelle strade, nei ghetti, ma nelle università americane, quindi in un contesto molto più, diciamo, molto più soft, molto più di dibattito intellettuale. Sempre per questo motivo, cioè l'identità afroamericana ormai non è più la doppia coscienza che descriveva di Du Bois, ma è semplicemente il fatto di essere dei neri americani che vivono in questa società multiculturale dove ogni identità sta nel suo posto ed esercita forme di lobbying culturale e economico, ma che non ha nessunissima prospettiva né di tipo rivoluzionario né di vera contestazione al sistema. Non negli Stati Uniti, per Non negli Stati Uniti, perché nei ora. Caraibi il discorso è diverso. Però appunto la sintesi è questa, cioè Fanon, un pensatore esterno a questa tradizione, perché viene dal contesto francese, perché si riferiva alle rivoluzioni africane, è rispuntato sostanzialmente due volte negli Stati Uniti, prima nel Black Panther Party per contestare l'assimilazione di King, e oggi per contestare l'assimilazione degli anni 80 e 90, e sostanzialmente il fatto che c'è un'élite afroamericana, cioè il presidente Obama, ma le cose sostanzialmente sono sempre le stesse, cioè si entra a quel livello lì solo diventando bianchi, cioè come diceva Fanon, indossando una maschera bianca, no? Il titolo suo era Pelle Nera, Maschere Bianche, cioè sei nero, ma sostanzialmente di quel afro che c'è davanti all'americano non c'è più nulla. Quindi il discorso sostanzialmente è questo.